tardi, sei arrivato tanto. Sì, oggi un po' di cose tarde. Io mi sto ascoltando un video di YouTube, hanno chiuso poc'anzi mi. E grosso modo siamo entrati forse 6 e mezza più che altro. C'era un po' di tutto, Gianfranco, Gianni, Lupo Grigio, Claudio, Giulio, Roberto, e chi altri c'era? Ma, no, più che altro noi, dai. Poi piano piano chi è andato a mangiare, giustamente. Io sono in poltrona, mi stavo guardando video YouTube sempre di questi polemici. Vabbè, è tutta una polemica internet adesso. Vabbè, tu come stai, Anto? Bene, bene, tu. E tu come stai? Chi è Lupo Grigio? Illuminami, non mi ricordo di averlo sentito. Nicola, Lupo Grigio, lui modula con un antennino da tipo zona cosa, come si chiama? Via, ma non via Le Caprera, più giù, vicino a via Le Trieste, Principessa Iolanda, ecco. Allora non qua arriva forte. Però entra poco, sai perché? Deve stare fuori nel terrazzino per arrivare bene. E poi quando comincia, adesso mica c'è più freddo, come arriva la ghiaccia, se ne deve rientrare dentro, se non gli fa male. Naturalmente lui in condominio, antenna, preferirebbe non metterne, perché sa già che faranno belle storie. Quindi per adesso dice vuole che ci sono anche altre cose in ballo, vuol far calmare le acque, poi quando si tranquillizzano un po' tutti tentare di mettere un'antenna. E tu poi avevi per caso deciso oppure ti stai tipo conservando i soldi per l'antenna? Ancora non sono arrivate quelle storm famose. Certo che guardando il prezzo a me mi sembra una cosa molto ambigua, cioè mi sembra un prezzo talmente basso per una 5 ottave, vabbè il negozio fa prezzi proprio da amico, quello sito lì fa dei prezzi che nessun altro fa, però mi chiedo poi se questa antenna renda, perché alla fine se... da provare, Anto, da provare, per quello che costa io l'avrei comprata anch'io per fare delle prove, per tenerla usi futuri, poi se non funziona me la filo nel QSO, pazienza. Ma che già andata l'antenna, non penso che, ma quella della Sigma, non penso che la Sigma ti fa porcheria, no? Stai tranquillo. Però è Sigma inglese, cioè non è la Sigma italiana della Mantova 1, è Sigma Eurocom. E sono un po' corte come 5 ottavi, poi questi radiali mini, c'è anche la mezz'onda, la mezz'onda addirittura 33 euro. Cazzo, ti costa meno di un'antenna di macchina, mi lo sai. È incredibile, ma c'era da comunque da prenderne una e conservarsela, te l'ho detto, installazioni temporanee per far prove a casa di amici, per tutto. Una mezz'onda, mica non una radiale, la mezz'onda mi piacerebbe comprarla e tenerla da parte, capito? Tanto si monta, cioè telescopica, gli elementi entrano uno dentro l'altro, poi tu li allunghi, stringi con la fascetta, stringi la staffa e hai piazzata l'antenna. E così è la 5 ottavi, solo che in più c'ha quei radialini da mettere alla base, no? Secondo me funziona bene, secondo me. La durata degli inglesi, cazzo, non funziona, vabbè. Ma secondo me non ha nessun tipo di problema. Però gli inglesi vantano quello che fanno loro, però poi si compareggiano la Mantova 1, la Mantova Turbo. E anzi, la vendevano, le ultime Mantova Turbo le stavano vendendo dall'Inghilterra, ma a caro prezzo, mia, a caro prezzo, tipo 200 euro. Vabbè, loro lo mettono in sterline, poi in euro sono quasi 200 euro, perché lo sanno che sono antenne durature, cioè quella la metti e la Mantova te la dimentichi, può stare 20 anni, 30 anni. Invece queste Sigma sono fatte Eurocom, no, se bene, non sono fatte molto, ma molto in economia. io dubito che duri quanto dura la mantova, anzi sono sicuro che non dura assolutamente, non dura quanto la mantova, però il prezzo è poco, cosa vuoi? Tu conta mezz'onda, 33 euro più 9 di spedizione, poco più di 40 euro c'è un'antenna base. Cappa, che non pesa neanche tanto. Secondo me è buona, secondo il mio parere. Secondo il mio parere è pompa, va bene, non ha problemi. Sì, pesa pochissimo, mi pare. Allora, loro ti dichiarano nel negozio il peso, però con tutta la confezione, col cartone, con la plastica. Cioè, tu l'antenna nuda e cruda, allora a mezz'onda dovrebbe pesare 2 kg. 2 kg, 5 metri e 30 di antenna, 2 kg solo. Quindi puoi usare anche un palo non troppo grosso, se lo metti basso. E l'altra sarà 2 kg e mezzo, come questa però è, la mia è lunga 6 metri e mezzo, 6 metri e mezzo, c'ha radialoni da 1,30 m, e lì invece la Venom 5 ottavi è 5,80 m, è più corta, capito? Ci hanno fatto appena più di bobina la base, però elettricamente è una 5 ottavi. Sì, ma secondo me non ha nessun tipo di problema, secondo me dovrebbe andare abbastanza bene. Io non, la verità non lo so perché non l'ho mai provata. Apriglia 2 EVA, stazionario è zero, proprio cazzo è fantastico, libero di stazionare, questa antenna è fantastica, non te ne dà Sì, ce l'ho tuttora, però ho perso una staffettina, lo sai. Mi pare ce ne vanno due, una l'ho persa e non l'ho più trovata. Sì, quelle sono calcolate, proprio costruite per non avere stazionarie, però ricordate che la resa è più bassa. Infatti molti lo chiamano carico fittizio. So che se la metti sul tetto qualcosa fa, dai. Cioè i sassari la copri tutta, ma problemi non ce n'è, ci mancherebbe. Dicevo, di questa Venom la preoccupazione più grossa, sai, quella alla fine, cioè quando tu fai l'installazione definitiva, no, che gli fai tutte le nastrature autoagglomeranti, no, in modo che non entri acqua, quello che temo è la resistenza al vento, perché il materiale è molto sottile dello stilo, capito? C'è la parete proprio della, vabbè, già capito. Secondo me non vuol dire niente, secondo il mio parere no, non vuol dire niente. Oh, anche io ce l'ho con una zappa e non andava la storm. Non è che ho due zappe attaccate, no. Cioè, sono una zappa e basta, perché l'altra non so dove cazzo è uscita. A me va bene, a me funziona bene. Cioè per la tenna piccola che è mi vuoi sentire, ma rimane anche fuori sassari, non ti preoccupare. Sì, ma infatti anche questa per dire, no, che non è mantova, non è coso, c'ho anche 50 metri di cavo, quindi perdita ne ho abbastanza, anche ricezione, però bene o male, poi se metti qualche watt sotto, poi con la 5 ottavi vola. Lo so, tu immaginati che qua cavo poco. Beh, che sono sotto tetto, quindi no, non avrei nessun tipo di problema. Naturalmente, quanti metri avresti bisogno tu? Cioè, quanti metri hai di cavo adesso? 5 metri e 46, come dice la casa. Solo, praticamente ce l'hai a un tiro di balla proprio, È buono, buono. Tu potresti fare una cosa, quando metti l'antenna grande, visto che i metri sono pochi, oddio, metti il 58, oppure metti il 155, che è sottile come il 58, però a meno perdita e forse regge anche più watt, forse. Praticamente ha le stesse caratteristiche quasi del 213, però è sottile come il 58, è un bijou quel cavo, e ha la guaina color grigio, non è nera, è un grigio medio, è molto bello come cavo e costa poco di più, cioè oddio. Vabbè, ma tanto mi per 5-6 metri ha voglia, ehi. Eppure l'avrei voluto provare un pezzone, magari entrano anche meno QRM. Può darci, Avrei voluto provare un pezzone di quelle. Purtroppo non me ne è rimasto, se non te l'avrei fatto provare. Allora, credo di ricordare che abbia, oltre la calza in rame, c'è anche quella, se non sto sbagliando io, dovrebbe avere quella, quell'argentatura, come si chiama? Uffa, quel foglio sottile che sembra carta d'alluminio, mi, per fare ulteriore schermatura. Cappa, e lo tiro come c'è, cioè, come c'è il cavo centrale, tipo quello dell'antenna del televisore? No, no, come il 58, tanti vari filettini, quindi non è troppo rigido, capito? Poi sottile, sottile come il 58, ma varia di pochi decimi di millimetro, dai, no? E quello va bene anche per frequenze di altro tipo, no? Alte, capito? Cappa. Ho il tuo numero, se no ti avrei mandato a vedere come l'ho piazzata. Ma sai dove l'ho piazzata io? Dove c'è la tappa del condizionatore? Nel lucernaio. Infatti io qua chiudo l'urcernaio, chiudo. E il cavo ci passa, non perde neanche acqua. Perdi un gabbiuglia, ma l'urcernaio non perde un filo d'eva col cavo messo. Quindi è meglio un cavo fine perché è meglio, capito? Se metto il cavo grosso non chiude poi, lo faccio tutto il lavoro, quindi il cavo fine è perfetto. Eia. Sì, poi hai talmente pochi metri, così pochi metri che non c'è bisogno. No, l'importante è che dico che il supporto regga la 5 ottavi, palo che sia, tanto leggera, eccetera. Ok, io adesso mi bevo il caffè, nonostante sia ora, tanto non dormo lo stesso, quindi caffè o non caffè, tanto vale godersi tutto. Mi accendo la TV, che ora è? 8 meno un quarto più o meno, no, 9 meno un quarto voglio dire. Vedo se c'è qualche film in TV interessante, se no, vediamo. Mi metto qualche DVD. Ok, Anto, dai. Ci sentiamo, che dire, dai, sentiamo le prossime. Che cappa, quanto ti sta arrivando il segnale? Sempre lo stesso, ho aumentato un po', perché ho fatto una piccola cosa, ho fatto. E tu sei a cavallo tra il 9 più 20 e il 9 più 25, solo che Anto non riesco a darti un segnale mai costante perché sto sempre cambiando il baracchino, quindi uno c'ha lo smitter a LED, uno c'ha lo smitter tirchio, uno c'ha la generoso, l'altro è lo stesso a LED e quindi no, non mi ricordo mai qual è il tuo segnale originale. Sì, così all'incirca tra il 9.25 e 9.30 è lì in quella zona, di Alugriglia, non è che sia tanto lontano, no? Sì, qua sei vicino, sei un tiro di palla, cioè otticamente, cioè linea d'aria è poco, ma voglia. Ok, pure la voce rauca mi sta venendo, porca miseria, ha rinfrescato molto, però adesso respiro almeno, prima mi venivano le cose, come si dice, con quelle mascherine poi al sole, gli attacchi di panico ti venivano. Cappa, in occhi c'è tipo negato. Eia, no, stavo pensando, aspetta, antenne, cose, cavi, no, niente, non me lo ricordo, ogni tanto mi si sovrappongono i pensieri, poi non mi ricordo già cosa ti volevo chiedere, vuol dire. E tu bande laterali, Antone, hai? Quello volevo chiederti. No, purtroppo no, non ce l'ho più l'apparecchio con le bande laterali, ce li avevo prima, non ce l'ho più l'apparecchio con le bande laterali. E Sì, vabbè che a Sassari siamo sempre in AM in realtà. Più che altro se parli con l'Italia lì, anche in Europa, sui canali alti soprattutto parlano in banda laterale, no? Anche se qua con questa Europa stanno sempre andando a stringere il giro di vite, il giro di vite, fra un po' va. Vabbè, non è importante, dai, già andrebbe anche a MFM. Guarda, ben poco lo usiamo a banda laterale, giusto per i DX, seppure me, perché certi DX li fai anche in FM, anche in AM. L'altro giorno c'erano dei segnaloni, lo sai, arrivava che il segnale praticamente ti arrivava uno a fondo scala o non ti arrivava, in un attimo era a fondo scala, in un attimo spariva, ma certi segnali, 9 più 15, 9 più 20, dal sud Italia erano tipo Bari o roba del genere. Io non avrei problemi a arrivare così forte a Puglia, sono arrivato in questi punti, cazzo, sono arrivato anche fortissimo di segnale, ma forte però me. Naturalmente più radiatore hai, cioè più lunga l'antenna meglio rende, dai, quindi 5 ottavi oppure mezz'onda. Naturalmente dove la metti tu riesci a tollerare radialini di tipo 40 cm o giù di lì? Non avrei problemi, cioè, ma ci vuole cosa molto più resistente, vuole. Dovrei metterla al centro testo qua, farmi fare il lavoro, perché non mi vedo, capito, con un bel tubo. Anche se non lo metti molto altissimo, però poi alla fine prende. Forte. Io con questa qua non so dove siamo arrivati noi, soprattutto Babbo, quando era dolce, cazzo, nel balcone, in Cottaglioni a fondo scala, cioè, non è che mi voglia sei antenna, no, parli quindi si rompe. Dipende dalla propagazione. Diciamo che rispetto agli anni 80, soprattutto fine anni 80, non 90, mi pare fosse il picco solare, ma all'epoca era allucinante la propagazione che c'era, ma poi la gente che c'era, pieno. Anzi, ti dirò che fare DX era anche un problema, perché c'erano talmente tante stazioni che chiamavano contemporaneamente che diventava un problema. Adesso è diminuita molto la propagazione, molto. Vabbè, dipende dalle macchie solari, no? Ciclo un decennale del sole, ogni 11 anni il sole, no, ha una certa attività tra virgolette, appaiono macchie solari e influiscono sulla ionosfera, roba del genere, e quindi è molto favorevole per i DX, però poche macchie solari, pochi DX. Lo so. Ma allora ve la buro qualche cosa sotto di importante. Io non credo che arriviamo così forte. All'epoca c'erano i valvolari selvaggi, chi ne aveva 500 di watt, chi 700, chi 1 kilowatt. E questo sempre CB normali, Poi se c'avevi attrezzature amatoriali, uia! Praticamente spegnevi le luci o le accendevi in tutto il quartiere. L'epoca vera, lo baracchino modificato col B300 attaccato, è da giù di tutto. Anzi, è un peccato, vabbè, quelle a valvole sono belli da una parte, però devi stare a accordare come cambi la frequenza, no? Invece quello, con la transistor lo accendi e boh, premi e vai, non devi accordare nulla, cioè se l'antenna è già tarata accendi e parti direttamente, non deve scaldare, è pronto all'uso, capito? Qualsiasi istante, come senti entrare le stazioni in propagazione, accendi, pigi il tasto e è fatta. Ok, Anto, rinnovo i miei saluti, dai, sentiamo alle prossime, sei. Ma di notte qualcuno sta entrando almeno per fare un questo notturno, perché io di notte mi attacco la TV, oppure, cioè, vabbè, se qualcuno vuole uscire, usciamo, ci pigliamo un caffè, un aperitivo, ma al baracchino, no, no, se no se comincia a stare da metà serata pure la notte è tribula la cosa, capito? No, non lo so se ieri notte hanno fatto qualche questo. Un di più sta apparendo, l'alimentazione sta arrivando giusta. Non lo so, no, Marco. Io ieri notte ho tenuto spento, eccetera, eccetera. E Cacchinotti, già ci vediamo. Magari chissà, facciamo anche una pizzata. Non è un problema, io non ho problemi con nessuno. È un periodo che pizzate non se ne fanno tante, poi vabbè, un po' di coesione manchiamo, però vediamo cosa c'è Shantou in futuro. Ok, dai, buona serata, buon tutto e alle prossime, ciao, buonanotte. Ok, buonanotte, comunque già mi farebbe piacere con le persone che sono sempre educate e cose, in questi giorni andare insieme e mangiarci la pizza, mi farebbe molto piacere. Ok, dai, ciao, ci sentiamo alle prossime.